Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Allora, l'avevamo annunciato giovedì scorso, giorno in cui è successo ed è successo che il reggae è stato inserito tra i patrimoni immateriali dell'umanità dall'UNESCO. Soprattutto grazie ai suoi testi che ricordano le ingiustizie, che portano alla giustizia, che portano, insomma, reggae amore, reggae libertà. E infatti proprio giovedì scorso il comitato speciale dell'UNESCO riunito a Port Louis, la capitale delle Mauritius, ha sottolineato la forza proprio del reggae alla presa di coscienza internazionale sulle questioni di ingiustizia, resistenza, amore e umanità. E per merito non solo del più famoso dei suoi esponenti, ossia Bob Marley, ma anche di altri moltissimi altri colossi che man mano oggi ci ascolteremo, oggi dedicheremo la puntata a tutti i cantanti giamaicani. Ma sì, vedremo di dedicarne qualcuno nel corso del tempo a questo evento, pure perché i generi sono tanti, ci sono i cantanti, ci sono i gruppi internazionali, ci sono i DJ, insomma, chi più ne ha, chi ne, più ne metta. Ci sta il reggae vecchio stile. Noi adesso faremo una panoramica, diciamo così, dei pezzi più famosi, cominciando da Bob Marley con un pezzo inno dell'indipendenza in Zimbabwe, concerto che Bob Marley fece proprio in occasione dell'indipendenza, e questa canzone fu un po', diciamo, l'inno. Africa Unite, Bob Marley, Robert Nesta Marley. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, has it been said? Marley, si sa, divenne celebre con il suo trio dei Wailers, composto da lui, Peter Tosh, Bunny Wailers, e quindi proseguiamo con Peter McIntosh. Questa è la sua Legalize It. Don't criticize it. Call it ganja. Never mind, got to exercises. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Allora vi ricordo il nostro numero di telefono, lo stesso da quasi 40 anni, 06 49 17 50. Potete comunicarci il vostro punto d'ascolto o semplicemente fare un trillino, e se siete in tempo rimanderemo il pezzo punto e da capo. Legalize è tra l'altro anche il primo album solista di Peter Tosh, prodotto dalla Columbia Records nel 1976, ed è un album che arriva 3 anni dopo l'ultimo, quello realizzato con i Wailers, in cui appunto Peter Tosh faceva parte insieme a Bob Marley e Bunny Wailer. E lo stesso Marley collaborerà in un brano di questo album, Why Must I Cry, mentre Bunny Wailer è nel testo di Till Your Wells Runs Dry. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. It's good for the food. For asthma, good for tuberculosis, even humor thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Allora oggi, visto la mole impressionante di brani che abbiamo da suonare, ci allungheremo un pochettino fino alle 17.30, tra l'altro alle 5 avremo una breve telefonica con Bunna degli Africa Unite e proseguiamo col terzo Wailer, quello che porta il nome ancora degli Wailer, che portava il nome degli Wailer, Bunny Wailer, questa è la sua Mellow Mood. Visto che ci siamo, vi ricordiamo anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche ovviamente su Spotify, dove troverete una playlist ricca di black music di oltre 40 ore. E ovviamente vi ricordiamo anche il sito della radio www.ondarossa.info, in cui troverete invece tutti i podcast della nostra trasmissione e di tutte le trasmissioni che trasmettono qui su Radio Onda Rossa. Allora, diciamo che dopo i Three Wailers a rappresentare questa musica abbiamo scelto Jimmy Cliff con la sua Many River to Cross, che è una canzone uscita nel 1969, tra l'altro Rolling Stones l'ha classificata fra i brani più belli della storia di tutta la musica. È un brano fortemente, tra l'altro, influenzato dal gospel ed è una delle poche canzoni in cui anche Jimmy Cliff suona l'organo elettrico, appunto per dare ancora più sottolineare questa contaminazione con la musica gospel. Tra l'altro, appunto, detto, pubblicato nel 1969, è anche presente nella colonna sonora The Harder They Come, il film che poi ha fatto conoscere il reggae anche in America. Film, tra l'altro, con Jimmy Cliff protagonista, appunto. Assolutamente bad sì. Boy ricercato dalla polizia, come piace molto ai giamaicani. Quindi questa è la sua The Harder They Come. Questa è Many Rivers to Cross. Many Rivers to Cross. Illumina qua la lucetta, lo 06 49 17 50, e noi non perdiamo l'occasione per rimettere da capo questa grande tune, Many River to Cross. Sicuramente non è facile scegliere i brani più rappresentativi di questa musica, e siamo andati anche seguendo i personaggi. Un altro personaggio indimenticabile per il reggae è sicuramente Barney Spear, questa è la sua Marcus Garvey. Marcus Garvey works. just got words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right and do it nice. Shall be spanked with many stripes. E questo brano dà il titolo anche al terzo album di Barney Spear, pubblicato nel 1975. E poi invece quattro mesi dopo verrà anche realizzata e pubblicata una versione dub dal titolo Garvey's Ghost. E tra l'altro questo, dopo i primi due album usciti per la Studio One, il Gox on Dodd, è il primo album pubblicato invece dalla Island Record di Chris Blackwell. Sicuramente tra i personaggi più influenti della reggae music c'è Alton Ellis, personaggio attivo sin dall'inizio della musica, scomparso qualche anno fa. Io ho avuto modo di conoscerlo, è venuto numerose volte qui a Roma, per una persona speciale, va, diciamo così. E lui è stato anche preso l'onorificenza giamaicana per il contributo a far conoscere la Giamaica nel mondo. E qui tra l'altro siamo con questo brano a Instilling Love nel 1967, quindi in piena epoca rocksteady pre-roots. I'm still in love. Vai Trillino, non perdo l'occasione di metterti la punta da capo, visto che qua si illumina tutto quanto ogni volta che suona il telefono. 06 49 17 50 per contattarci, come ha fatto il Banni, che salutiamo, o comunicarci il vostro punto d'ascolto. Alton Ellis, che aveva anche un negozio di dischi nel mercatino di Brixton, l'Alton Store, e continua la sua eredità il figlio Chris Ellis. Quando si è avuto la notizia della programmazione del reggae come patrimonio dell'umanità, patrimonio immateriale, c'è stata una festa alle Nazioni Unite. C'è stata una festa anche in Giamaica poi successiva, ma proprio nel momento dell'annuncio i rappresentanti giamaicani che erano lì per votare hanno ringraziato tutta l'organizzazione e invitato tutta l'assemblea a cantare e ballare sulle note di One Love, e ci sono anche i video. Trovate il video in rete, sì, dove tutti cantano questa splendida, questo splendido inno scritto da Bob Marley, un inno di pace. Ovviamente c'è stata anche la dichiarazione del ministro della cultura giamaicano. Sì, il ministro Olivia Grange, che appunto ha dichiarato: ringrazio l'UNESCO per questa iniziativa, la Giamaica in questo modo riceve un'immensa testimonianza di amore per la musica reggae, che è anche la prova del suo impatto nel mondo. E quindi ancora appunto dice: vi invito tutti a cantare insieme a noi la canzone icona dell'icona del reggae Bob Marley, One Love, e appunto ci sono i video e tutto ciò. È stato comunque una grande festa per questa proclamazione. E allora proseguiamo con Ken Booth, questa è la sua Everything I Own. You sheltered me from harm, kept me warm. Cheers, I have new. Una puntata piena di trillini, eppure Ken Booth lo rimettiamo da capo. E allora, questo brano era scritto inizialmente per il 1972 da David Gates per il gruppo, i Bread, e quindi per il loro album, ma in realtà poi la versione, ne furono fatte tante versioni di questo brano, anche Boy George, Rod Stewart, ma in realtà la versione che ha avuto più successo è proprio questa di Ken Booth, che è arrivata al numero uno delle classifiche inglesi nell'ottobre del 1974, restandovi per ben 3 settimane. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest shears I have knew is all the years I have with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my own. And I would give anything I own just to have you back again. Is there someone you know that won't let you go and taking it all? Don't hear a word they say. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my own. And I would give anything I own just to have you back again, just to talk to you words again. Quello che andiamo a suonare adesso è sicuramente il personaggio più eclettico della scena reggae mondiale. Sto parlando di Lee Scratch Perry, prima uomo al mixer, poi produttore, poi cantante, nonché produttore. Continua la sua storia il figlio Omar Perry, lui è ancora vivo, anziano, ha dato fuoco numerose volte al suo studio, lo vediamo con cappellini stravaganti pieni di spillette, capelli rosa, verdi, gialli. Gira ancora il mondo, in tournée, alla sua veneranda età, in splendida forma in realtà. E negli anni il reggae ha abbracciato diversi stili, idee musicali, ma ha anche influenzato e dato vita a nuovi sottogeneri. E particolarmente significative a questo riguardo sono state le tecniche di registrazione innovative sviluppate da produttori giamaicani come appunto Lee Perry, Kintabi e Bunny Lee, e che appunto hanno dato vita poi al dub. Sì, diciamo che gli effetti di Lee Perry, i dub di Lee Perry sono inconfondibili. Tra l'altro fu uno dei primi a produrre Bob Marley per vario tempo in Giamaica, prima che diventasse famoso con gli Wailers in Inghilterra. Insomma, un personaggio degno di nota. Questa è la sua 420 Dreadlocks. Children sing 420 dreadlocks all before the king. Hooray, hooray, hooray. This is why they sing, 'cause he was able to loose the seals and set the captives free. Abbiamo scelto anche un rappresentante dei DJ, lui è Daddy Uroy. Questa è la sua version galore. Version galore, you can hear them marvelous score. I could give it a moment in a musical disc called version galore. Play it on my track. You are tipping with me, good, be good like you know you should. Times together, we gonna need a life for each talk. Uroy che diede vita alla scuola dei DJ Trinity, sono infiniti DJ in Giamaica, casomai dedicheremo una puntata pure ai DJ. Ai DJ Style, sì, era la fine degli anni 60, lui collaborava con il sound di Kintabi, eppure lui a suo modo fu un precursore anche dell'hip hop, del rap, che solo 10 anni dopo poi si svilupperà in America. For I love no other one but you love my soul, and maybe that you never let her go. You can be so and so, so maybe say so. See, you got to be on the go. You can see that you never know. Say you keep on coming back to the door. we're gonna have happy times together. We're gonna live a life for each other. Che ha spaziato anche in altri generi musicali, sia come campioni, sia utilizzati soprattutto nell'hip hop, nel rap, ma anche nel pop mainstream, sia come cantanti che hanno preso altre strade senza mai abbandonare quella del reggae, come il caso di Orassandy, che è diventato voce, una delle voci di Massive Attack, ma divenne famoso in Giamaica con una produzione Studio One, con una canzone nello specifico che si chiamava Skylarking. Volentieri, punto e da capo 06 49 17 50 per trillarci o comunicarci il vostro punto d'ascolto. Questa che rimettiamo da capo è Skylarking. Change. dreams. So if you're evil, doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. The sky like him, that's what you do today. E altro grande personaggio del reggae è sicuramente Jacob Killer Miller, personaggio morto giovane ma che ha sfornato una notevole quantità di hit e di dischi clamorosi. Sì, morto giovane, tra l'altro in un incidente stradale. Lui aveva riportato appunto delle ferite mortali due giorni dopo essere stato tra l'altro in Brasile in compagnia di Bob Marley e di Chris Blackwell. Infatti era diventato anche una stella del produttore dell'Island e si era recato appunto in Brasile per l'apertura dei nuovi uffici dell'Island Record in Brasile e in tutto il Sud America. Questa è la sua Tenement Yard. Dreadlocks can't live in a tenement. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks can't live in privacy. Anything him do, all nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can smoke and pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Can't penetrate in a tenement, yeah. Can't penetrate in a tenement, yeah. Skip, skip, oh, oh, oh, oh. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy-wa. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy-wa. Dreadlocks can't penetrate the red man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy-watchy-watchy, too much su-su-su-su. Can't penetrate in a tenement, yeah. Can't penetrate in a tenement, yeah. Dreadlocks can't lick him pipe in peace. Too much informers and too much beers. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Can't hide it dead in a tenement, yeah. Can't hide it dead in a tenement, yeah. Dreadlocks can lick him pipe in peace. Too much Babylon and too much love. Too much Abuki Diti Ba. Too much informer. Love and hate can never be friends. Oh no, oh no. Here I come with love and not hatred. Allora, se Bob Marley era il re del reggae, Dennis Emmanuel Brown era sicuramente il principe. Noi, come annunciato, abbiamo a telefono Bunna degli Africa Unite, personaggio storico del reggae qua in Italia. Ciao Bunna, ci sei? Eccomi qua, ciao Pietro, sono qua, certo, certo. Ciao, senti, avrai sicuramente sentito la notizia che l'UNESCO ha dichiarato il reggae patrimonio immateriale dell'umanità giovedì scorso. Sì, l'ho sentita, tra l'altro, guarda, il venerdì mattina mi hanno chiamato quelli del Fatto Quotidiano, cioè mi ha stupito una cosa per un'intervista su questa questione, però insomma mi ha fatto anche piacere. Sì, l'ho sentita questa notizia, mi fa piacere che è una cosa, un bene chiaramente immateriale come può essere il reggae, che però io penso abbia al suo interno insomma dei messaggi, almeno il reggae di Marley, insomma quelli insomma che vanno in quella direzione, dei messaggi sicuramente positivi, e il mondo penso abbia bisogno di messaggi positivi, nel senso, quindi benvenga questo riconoscimento, insomma. Senti, ma tu come ti sei avvicinato al reggae? Guarda, mi sono avvicinato al reggae in modo assolutamente casuale e occasionale, nel senso, mi ricordo che ascoltando la radio a un certo punto ho sentito un pezzo che, insomma, di un genere abbastanza, cioè, indefinito per me allora, a quel tempo, che non avevo mai sentito, una musica che suonava in un modo diverso da tutte le altre che avevo ascoltato finora. Ho capito dopo che quello era il reggae, quello era un pezzo di Marley, forse era addirittura Live Up Yourself, poteva essere. E così ho approfondito la conoscenza di questa musica, ho voluto capire che cosa fosse, da dove arrivava, e un po' di dettagli di questa cosa. Poi siamo un po' contagiati tra compagni di scuola, insomma abbiamo fatto molti adepti, nel senso che comunque molta gente ha cominciato a seguire, a informarsi e a interessarsi di questo genere. Di lì a poco abbiamo messo insieme un gruppo, sempre all'interno dei compagni di classe di scuola, dove provavamo in qualche modo a cimentare quello che era il reggae di Marley, chiaramente in modo molto ingenuo, e insomma, però insomma, quello è stato il primo approccio. Poi chiaramente abbiamo cercato, insomma, nel tempo di affinare la nostra tecnica musicale, per poi, insomma, cercare di fare una roba che potesse andare oltre le cover e potesse anche, come si dice, fare della musica propria, proporre delle cose proprie che comunque avessero quell'ispirazione lì, quell'origine lì, insomma. Chiaramente Marley è stato una folgorazione, è stato pazzesco. Ci siamo innamorati in prima battuta chiaramente della musica, delle melodie, del ritmo, ma poi approfondendo la sua conoscenza, cercando di capire meglio tutto quanto, è stato molto bello. Ci siamo anche innamorati dell'attitudine di questo genere, dell'attitudine, insomma, del fatto che Marley comunque usava la musica per dire le cose, per far passare dei messaggi. Questa è una cosa che ci ha colpito molto. E poi più avanti, quando si è cominciato a provare a fare della musica propria anche con gli Africa, l'attitudine che abbiamo sempre tenuto ben presente, nel senso, abbiamo sempre pensato che comunque chi fa la musica, poi soprattutto se viene da una certa radice, è importante, insomma, che dica delle cose, quantomeno per fornire degli spunti di riflessione su degli argomenti. È importante dire da che parte uno sta, e poi chiaramente il pubblico decide se siete d'accordo o no. Però quell'attitudine lì rispetto al messaggio è una roba che ci ha molto anche toccato e contagiato, insomma. Sì, tra l'altro Marley aveva la capacità di dire le cose in maniera molto semplice, infatti è una delle persone, dei cantanti, è forse il cantante più ascoltato nel mondo, in quanto è ascoltato in tutta la parte, tutto il continente africano, dove molti meno sono gli altri cantanti, diciamo, che vengono ascoltati in generale. E poi, come dicevi tu, il messaggio positivo, il messaggio di amore, il messaggio di pace, che la sua musica, perché purtroppo il reggae ha preso anche altri, sì, perché chiaramente estendere questi concetti a tutto il reggae diventa un po' complicato, perché no, abbiamo, insomma, come sappiamo, c'è tutta una frangia di artisti che, insomma, non sono proprio, come si dice, portatori di questi valori, insomma, purtroppo. Sì, purtroppo sì, in Giamaica ha preso una brutta deriva, diciamo, già da più da una quindicina d'anni, ma forse da sempre, in quanto il Bad Boy in Giamaica è un'isola piena di contraddizioni, va, diciamola così. Certo, però è chiaro che, insomma, come si dice, l'origine è una, poi chiaramente ci sono le evoluzioni che chiaramente sono dovute anche a tutta una serie di influenze, che sia il reggae come musica, che gli artisti che, insomma, che lo producono hanno avuto, insomma, la musica americana, sicuramente l'hip hop, tutto questo scenario legato al machismo, tutte queste cose chiaramente hanno portato il reggae in una direzione che non era proprio, insomma, quella originaria. Chiaramente io sono molto legato invece a quella cosa di cui parlavamo prima, insomma, il reggae l'ho sempre visto come messaggero di tolleranza, rispetto e tutte queste cose, e quindi chiaramente ascolto questo tipo di reggae. Mi sono reso conto, quando sono l'ultima volta che sono andato in Giamaica, che ormai ascolto il reggae che ascoltano i tassisti che hanno 50 anni, nel senso che chiaramente i ragazzi, i ragazzini, insomma, a parte qualche eccezione, ascoltano delle cose sicuramente più moderne, che secondo me con il reggae, quello che intendo io come reggae, quello originario, ha ben poco a che vedere, anche musicalmente parlando, purtroppo. Ed è proprio questo che io ti volevo chiedere. Infatti, quando capita adesso di andarci a vedere i mostri sacri del reggae, notiamo che il pubblico è sempre più grande, i giovanissimi forse sono più allontanati da questa musica. Come lo vedi tu il futuro? Come si può far tornare di nuovo il reggae in voga e appunto i messaggi positivi che lanciava? Bah, chiaramente io la ricetta magica non ce l'ho, però insomma nel tempo l'Italia comunque ha fatto un grande lavoro sul reggae, nel senso, negli anni. Mi ricordo quando abbiamo cominciato noi, veramente la situazione era molto ridotta, molto piccola, sia dal punto di vista di chi il reggae lo faceva, i gruppi si potevano veramente contare sulle dita di una mano. Con gli anni il lavoro fatto da gruppi come il nostro, fatto da Pittura Fresca, fatto da festival come il Rotterdam Sans, ci hanno chiaramente aiutato molto la divulgazione di questa cultura e di questo genere, e quindi chiaramente insomma siamo arrivati in un momento in cui la scena è molto molto grande, c'è molta gente che il reggae lo produce, lo fa, e insomma bene o male c'è una discreta scena che lo segue. Non saprei dirti qual è la regola, però io insomma ti dico, con gli Africa abbiamo sempre cercato di dire, insomma, fondamentalmente io penso che secondo noi la cosa importante è quella di essere coerenti, nel senso, è inutile voler essere qualcosa che non si è. Quindi chiaramente noi usiamo il nostro linguaggio, un linguaggio che chiaramente di persone che chiaramente non sono ventenni, quindi magari quella roba lì può non aiutare nella comunicazione magari con le nuove generazioni, però insomma è importante comunque dire delle cose che ci appartengono, cioè parlare della nostra cultura. Noi non siamo nati e cresciuti in un ghetto di Kingston, siamo italiani, quindi secondo noi è importante e giusto parlare della situazione nostra. Poi chiaramente insomma portare i giovani da questa parte verso il reggae russo, tutte queste cose non saprei dirti come fare, però insomma bene o male non è che non ce ne siano, ce ne sono. È chiaro che forse la maggioranza insomma dei ragazzini magari preferisce ascoltare, che ne so, se è basta, purtroppo. Sì. Però quella roba lì è una cosa anche di comunicazione più grossa, nel senso che comunque su quei prodotti lì, su quei progetti lì si sono innescati dei meccanismi che sono diventati virali, e poi chiaramente supportati, chiaramente nel momento in cui si vede che una cosa funziona, chiaramente tutto il business lavora per farla funzionare ancora meglio, quindi sono sicuramente fomentati anche da investimenti e tutto quanto. Questo è un momento sicuramente molto particolare per quanto riguarda la musica, però io sono convinto che bene o male, se in questo momento c'è un po' di leggerezza, e purtroppo insomma gli artisti, quelli insomma alcuni degli artisti che sono veramente in cima alle classifiche e sono molto popolari, conosciuti, hanno molto successo, purtroppo propagandano dei messaggi negativi, anche abbastanza pericolosi secondo me per le nuove generazioni. Però io sono convinto che questo sia un momento che bene o male io penso che si possa tornare ad apprezzare la musica di un certo tipo, la musica buona, e nello stesso tempo anche le canzoni che parlano, dicono delle cose insomma positive o comunque negative, ma comunque con un approccio insomma coerente e credibile rispetto a quello che siamo. Sì, è decisamente vero quello che dici. Tra l'altro una ventina d'anni fa questi messaggi erano molto meno frequenti. Quando ho annunciato che avremmo fatto la telefonia con te, ha chiamato uno storico redattore ricordandosi di un concerto degli Africa Unite per Radio Onda Rossa dei primi anni 90 al Puccini. Quando è cominciato il progetto Africa Unite? Ma il progetto è cominciato così per scherzo nei primi anni 80, intorno all'81 se vogliamo proprio dare una data precisa, però chiaramente insomma senza nessuna velleità e nessuna intenzione di far diventare quella roba lì quello che poi è diventato. Insomma, certo. Suonavamo insieme perché ci piaceva il genere, provavamo a, insomma, ascoltando inizialmente Marley, abbiamo provato a capire come si poteva rendere quel genere lì, quel ritmo, quel tipo di musica che, come dicevo prima, suonava in un modo assolutamente diverso dalle cose che avevamo ascoltato finora. Poi col passare del tempo, insomma, e anche con i risultati che si vedevano, la gente, insomma, cominciava ad apprezzare anche le cose, anche ingenue, che, insomma, che proponevamo nei primi anni quando abbiamo cominciato. Abbiamo continuato e abbiamo cercato, prima cantando in inglese, poi più avanti negli anni per passare a cantare in italiano, a fare delle cose nostre, che ci sembrava importante per tornare al famoso discorso della coerenza e della credibilità, perché, insomma, siamo italiani, dobbiamo parlare di quello che sta intorno a noi fondamentalmente, e non è giusto neanche, secondo noi, scimmiottare qualcosa che non siamo. Noi, insomma, italiani siamo, parliamo italiano, a volte facciamo qualche pezzo in inglese e filo lì ci sta, però, ad esempio, quell'approccio lì al fatto giamaicano io lo vedo un po' lontano dal mio e dal nostro modo di intendere la musica, fondamentalmente. Sì, anche per essere, perché nel senso, compresi. Poi è importante che, capito, quando canti il tuo pubblico ti ascolta, bene o male, secondo me è importante che capisca quello che tu stai cantando. Già l'inglese è complicato, che poca gente lo capisce, figurati il patois giamaicano, quindi diventa una cosa, sì, una scelta diversa fondamentalmente. Io apprezzo anche i gruppi che, come si dice, percorrono questa strada, che vogliono magari diventare più una carta internazionale, ben venga. Noi abbiamo sempre pensato più al nostro territorio, a un pubblico che fosse più vicino a noi, anche da tutti i punti di vista, geografico innanzitutto e anche linguistico, per quello che abbiamo sempre scelto un po' questo approccio qua. E allora io inevitabilmente ti chiedo quali sono i vostri progetti futuri, allora. I nostri progetti futuri sono che stiamo lavorando ad un disco nuovo, un disco molto particolare. Noi l'inverno scorso abbiamo fatto un tour nei teatri, solo un tour molto particolare, nel senso dove degli Africa ce l'avamo solo in tre, io, Madaschi e il chitarrista nostro che si chiama Benz, che in quella situazione lì nei teatri suonava la viola. Era una situazione molto particolare perché sul palco c'eravamo io, Madaschi, che gestiva le robe elettroniche, un quintetto d'archi e un corpo di ballo di danza moderna, una roba molto molto particolare, però è stata veramente un'esperienza interessante, suggestiva, e ora stiamo lavorando ad un disco che va in quella direzione lì, un disco orchestrale, un disco che potrebbe anche centrare poco col reggae, però questa volta sono pezzi pensati proprio per fare una roba che va in quella direzione qui, nell'attesa poi di fare un disco, insomma, classico, insomma, diciamo, tra virgolette, solito, insomma, quelle cose reggae che, insomma, come abbiamo sempre fatto negli anni, anche ogni tanto sconfinando anche dal genere, perché, insomma, non ci piace neanche sentirci troppo relegati in un genere che, insomma, del quale devi rispettare delle regole, a volte, insomma, si può anche andare oltre, insomma. Va bene, Bun, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questo tuo contributo e aspettiamo con ansia il tuo nuovo disco. Vai, grazie a voi, grazie a te, Pietro, poi ci aggiorniamo su tutto quanto. Vai, bella. A presto, bella lì. State bene, ciao. Grazie, ciao. Liverpool children, oh yeah, Liverpool children, oh yeah. My E allora non possiamo esimerci da sentirci un pezzo degli Africa Unite dopo questa simpatica intervista con Bunna. Questa è la loro Notti. allora torniamo in Giamaica, nell'isoletta delle West Indies, dove tutto è nato. Lui è un altro personaggio venuto a Roma spesso, anch'io l'ho portato spesso, ho fatto un disco con lui, sto parlando di Max Romeo, che fece il disco con la Tribù Acustica in This Time, ma è famoso per la sua War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Look at that, it's exploded. Who are you saying? It's exploded. Oh yeah. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. It's exploded. Who are you saying? It's exploded. Un disco questo prodotto dagli Scratch Perry, ancora è suonato con gli Upsetter, e tra l'altro era veramente il periodo d'oro questo di Lee Perry, e anche l'anno successivo, 1977, era l'uscita di Police and Thieves di Junior Marvin, un brano che poi hanno ripreso un po' tutti, e anche la versione dei Clash. And you know it's true, yeah. Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Who wants it? Is it loaded? So what if it's not out there? Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Who wants it? Max Romeo ha aperto alle collaborazioni, fu prodotto anche da Giasciaga, due dischi. The Pharaoh is the captain of my ship. Is it loaded? E allora l'abbiamo nominato e ce lo sentiamo, questa è Police and Thieves di Junior Marvin. Dopo la voce in falsetto di Junior Marvin, passiamo a qualche voce femminile che ha caratterizzato la storia di questa musica del reggae. E iniziamo con una che tra l'altro faceva parte anche delle Eitriz insieme a Rita Marley e Judy Movat. Parliamo di Marcia Griffith e questa è la sua versione di I Shall Sing. Young enough to dance all night, too weak to hold it back. strong enough to give your heart attack. The situation sweet my soul as long as I live. I shall see as long as I live, and as long as I live, I shall see. Faces, and been many places. Too late to turn back now. If I do, Jah will strike me down. Yes, I have places to go. Yes, and a lot of things to do. If you think I'd give it up now, as long as I live, I shall see. As long as I live, and as long as I live, I shall see. As long as I live, and as long as I live, I shall sing. I thank God that He made me to sing to the world all over. Love message I'll bring. He put a song in my heart, yes I know. Come along people, good seeds we'll sow. I don't care what they do or say, I'll never stop singing, oh no, no way. Someday I will get my pay, as long as I live, I shall sing. As long as I live, and as long as I live, I shall sing, I shall sing. As long as I live, and as long as I live, I shall sing. In my days I've seen many faces, and been many places. Too late to turn back now. If I do, Jah will strike me down. Yes, I have places to go. Yes, and a lot of things to do. If you think I'd give it up now, as long as I live, I shall sing. As long as I live, and as long as I live, I shall sing. Reggae con un messaggio positivo, come diceva anche Bunna prima, e poi tra l'altro il motivo per cui ha ricevuto questo riconoscimento internazionale. E Bob Marley, che ebbe anche un ruolo politico in Giamaica non indifferente prima di andarsene dalla Giamaica, diciamo. Sì, ci sono state anche delle critiche, no? Perché a leggerla così sommariamente sembrava quasi che fosse stata questa proclamazione del reggae come appunto patrimonio dell'umanità, e quasi fosse una cosa di intrattenimento. In realtà era proprio il messaggio politico e sociale che c'era dietro, che appunto la commissione dell'UNESCO ha voluto premiare. E appunto era il 22 aprile del 1978 e Bob Marley era al National Stadium di Kingston e diede appunto vita a questo One Love Concert, in cui sul palco aveva chiamato i rivali politici storici a stringersi la mano, e loro erano Michael Manley e Edward Siga, e appunto e li ha persuasi a unirsi tra di loro, e quindi appunto un messaggio di pace, che questo incontro sembrava veramente impossibile realizzarsi, in realtà l'ha fatto proprio un cantante. Sì, tra l'altro una Giamaica dilaniata dagli scontri, dagli omicidi politici. Lo stesso Marley era stato vittima di un attentato. Sì, lo stesso Peter Tosh è stato ucciso. Va bene, proseguiamo con questo breve excursus sulle voci femminili e passiamo a un'altra voce della triste. Lei è Judy Mowat, questa è la sua Black Woman. Rough as road, you get the heaviest load. E allora si illumina qua lo 06 49 17 50 e io non posso perdere l'occasione per rimettere il pezzo da capo. Black Woman, Judy Mowat. E allora non poteva mancare la terza voce delle Trees, sto parlando di Rita Marley, una delle mogli di Bob Marley, la prima storica moglie di Bob Marley, a cui ha dato due figli, e questa è la sua Arambe. Allora abbiamo scelto un altro brano per rappresentare le voci femminili, un brano storico che è sempre stato campionato numerose volte, ripreso in vari generi musicali. Parliamo di Uptown Top Ranking, pubblicato nel 1977 dal duo giamaicano Altea and Donna, e si tratta dell'unico brano poi di successo che hanno fatto queste due ragazze, ed era la versione fu prodotta da Joe Gibbs, e tra l'altro il 45 giri ha raggiunto proprio nel 1977 la vetta della classifica in Inghilterra. Trillino Easy, certo che la rimetto da capo, Altea and Donna, Uptown Top Ranking. In our khaki suit and Allora, questo è l'ultimo brano per questa puntata. Ci siamo allargati abbastanza, sono le 17:47 e 47 secondi qua in Via De Volci a Radio Onda Rossa. Ma questa è solo la prima dedicata al reggae, e in quanto appunto opera d'arte, ormai possiamo dirlo, patrimonio dell'umanità. Giovedì prossimo ci dedicheremo al jazz. Eh sì, ascolteremo i più bei, più interessanti dischi usciti in questo 2018, e quindi ascolteremo tante tante cose che meritano di essere ascoltate. E allora, visto che è in chiusura e qua si illumina tutto d'immenso, rimettiamo per l'ultima volta questo brano e lasciamo la linea redazionale. Arrivederci, ci sentiamo giovedì prossimo. Love is all I bring. In a me khaki suit and tie.